Lengvai duračio, daimė jokį, rezinta kumflena. La geografia in porcellana del tuo viso. Le tinte pastello che ti si posarono indosso dalla nascita. Misterioso più del nero mi radiano. Passione.